Non ho mai tempo di andare da mio padre, potergli dire papà come va. E pensionato insieme a mia madre cerca di vivere con dignità. Io mi vergogno ma non ho mai tempo, oggi ho famiglia e papà capirà. Quando mi vede dagli occhi suoi stanchi cade una lacrima di felicità. Viva mio padre che non chiede niente, viva mia madre che mi ha dato tutto, viva il telefono che mi consente di salutarli anche se raramente, viva il telefono che mi consente di dirgli ciao, ti penso sempre. I got you babe, I got you babe, I got you babe. Baby, my heart, I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Baby, my heart. Noi ci vediamo per le feste importanti, due volte l'anno e mai di più. Per lui son sempre eterna bambina che dette un senso alla sua gioventù. Viva mio padre che non chiede niente, viva mia madre che mi ha dato tutto, viva il telefono che mi consente di salutarvi anche se raramente, viva il telefono che mi consente di dirvi ciao, vi penso sempre. I got you, babe, I got you, babe, I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Baby, my heart. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Baby, my heart. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Baby, my heart. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Baby, my heart.